Mrs. Bullivant, mormorando smozzicate risposte a quell'incessante flusso di partecipazione proveniente dagli ufficiali in pensione e dalle rispettive mogli e figlie, nonché dai dignitari che gravitavano attorno alla cattedrale e dalle rispettive mogli e figlie, nonché dalle mogli e dalle figlie della contea giunte senza mariti e padri, rifiutatesi di accompagnarle, sentiva vagamente ingiusto che Ingeborg dovesse al contempo peccare e ricevere compassione. La famiglia aveva decretato, come si conveniva, di escluderla dai confini del proprio affetto, fino al momento in cui avesse annunciato la rottura di ogni suo legame con quell'orribile tedesco, chiedendo anche il perdono per essersi fidanzata. Lei, comunque, non aveva per nulla l'aspetto di una persona la cui condotta abbia oltrepassato ogni limite. Piuttosto, sembrava voler dare al bando imposto dalla famiglia la massima pubblicità. Che dose incredibile di cattivo gusto! Era davvero la più raccapricciante espressione di cattivo gusto da parte di una peccatrice far di tutto per apparire vittima di quel peccato, ingiustamente maltrattata e apertamente afflitta. Eppure, nessuna figlia colpevole di un atto così orribile, di un inganno così spregevole, era mai stata trattata dalla propria famiglia con tanta gentilezza. Mrs. Bullivant sentiva che l'unico aspetto positivo di quella sventurata faccenda erano state le perfette buone maniere con cui i Bullivant avevano fronteggiato la situazione. Nessuno di loro aveva mai nemmeno lontanamente alluso alla scenata perpetrata da Ingeborg il pomeriggio del suo rientro. Nessuno l'aveva interrogata, nessuno l'aveva disturbata. Era stata lasciata tranquilla. Nessuno aveva preteso da lei il benché minimo sacrificio per venire incontro alle proprie necessità. In quella settimana suo padre, non permettendole di entrare nello studio, le aveva concesso piena libertà e ogni volta che aveva tentato di dare una mano a sua madre oppure in casa, Richards era stato mandato immediatamente a chiamare. Judith, quella povera bambina che sembrava come sapersi comportare per istinto, senza nemmeno una parola della madre che la indirizzasse in tal senso, aveva evitato Ingeborg. Si era dimostrata particolarmente sensibile riguardo all'accaduto e i suoi sentimenti si erano rivelati parecchio affinati nel percepire il lato oscuro della vicenda e nelle occasioni in cui Ingeborg, durante il primo e il secondo giorno del suo ritorno, aveva provato a parlarle. Lei, dopo essere arrossita, si era spostata in un'altra stanza. Ingeborg aveva trascorso in giardino l'intero fine settimana, libera, indisturbata, senza nessuno che avesse richieste nei suoi confronti. Ed ora? Eccola lì, immobile come un palo, tra gli invitati, oppure assurdamente seduta da sola negli angoli più remoti, dimagrita, pallida e seria, l'unta della famiglia. In quel momento, attraverso un varco tra la moltitudine, Mrs. Bullivant vide qualcuno rivolgere la parola a Ingeborg. Si trattava di un generale, che attualmente in pensione sfogava la sua bramosia di disciplina allevando api. Ebbe giusto il tempo di notare sua figlia trasalire e arrossire nel momento in cui l'uomo le aveva d'un tratto rivolto la parola. Che atteggiamento disdicevole trasalire e arrossire, prima che il sipario della folla si richiudesse su quella scena. Chiuse gli occhi per un attimo, sentendosi impotente. Chissà fino a quale punto le cattive maniere di Ingeborg si sarebbero spinte e che cosa l'avrebbe indotta a riferire al suo interlocutore. Con la sollecita gentilezza che i padri delle altre figlie sono soliti dispensare alle figlie di altri padri e che senz'altro dispensano pure, commentò fra sé il vescovo, osservando la scena a distanza e concedendosi il conforto di un istante di rancore, a ogni altra femmina generata su questo pianeta che presenti l'indiscutibile vantaggio di non appartenere alla loro stessa famiglia, il generale le stava certamente esprimendo il suo grande rammarico nel vederla in quelle condizioni. Ma in quali condizioni? Chiese Ingeborg prontamente, trasalendo e arrossendo. La settimana trascorsa nei panni di una fuoricasta aveva annientato la sua vitalità e ora temeva che il viso le fosse diventato una sorta di sfera di cristallo, attraverso cui ognuno potesse vederla sulla sommità del righi mentre veniva chiesta in moglie. Sei di un pallore spettrale, rispose quell'uomo caritatevole, torreggiando al di sopra di lei, mentre tazza alla mano si dondolava alternativamente sulle punte e sui talloni, lasciando scricchiolare gli stivali, attività che doveva trovare vagamente piacevole. Uno di questi pomeriggi deve venire a trovarci per farti una bella partita a tennis con Dorothy. Sei stata chiusa in casa a consumarti su quella corrispondenza troppo a lungo. Ecco quello che è successo, mia cara signorina. Vorrei tanto fosse così. Oh, vorrei tanto, davvero, disse Ingeborg, congiungendo le mani con forza e sollevando rapida lo sguardo con gratitudine verso quel frammento isolato di umanità. Quando pensiamo a te, ti immaginiamo sempre seduta nello studio a scrivere lettere senza posa, proseguì cordiale l'uomo, più interessato a ciò che stava dicendo piuttosto che a quello che stava dicendo a lei. Il braccio destro del padre, l'indispensabile assistente della madre. Lo dico sempre a Dorothy. Ingeborg prese a contorcersi sulla sedia. Oh, non dovete dire a Dorothy, non ditele. Che cosa non dovrei dirle? Non sai ancora? Sì, invece lo so. Voi le dite sempre che dovrebbe essere come me. Ma Dorothy è così buona e cara, e per tutto l'oro del mondo non sarebbe mai andata. Si fermò appena in tempo e lo fissò spaventata. Se l'era quasi lasciato scappare. Il generale, comunque, la osservava con uno sguardo di benevola incomprensione. Ingeborg, invece, replicò il capo, contemplando le punte dei piedi di lui mentre toccavano il tappeto e si rialzavano ritmicamente. Nessuno può sapere davvero come sia dentro un'altra persona, concluse con voce triste. Viene da noi a giocare un po' a tennis, le disse battendole benevolmente una mano sulla spalla. E più tardi al vescovo riferì nel suo desiderio di avere ogni cosa in ordine al suo posto, cioè i giovani all'aria aperta e le persone attempate alla scrivania del loro studio, così come il pallore esangue sul viso dei malati e il colore delle rose in fiore sulle guance delle ragazze, che non doveva far lavorare all'eccesso quella sua giovane figlia. All'eccesso! Esclamò il vescovo, colmo di memorie di un'intera settimana di inattività. Mandala un po' fuori al sole, balli, ragazzo mio, lo apostrofò il generale con una familiarità che derivava dal periodo in cui a Eton il vescovo era una matricola che svolgeva i più umili servizi per lui, a quel tempo già studente anziano. Al sole! Esclamò il vescovo, che per 6 lunghi giorni aveva osservato la figlia fuori dalla finestra di casa, orribilmente in ozio sotto i suoi raggi. Se continui a tenere una ragazza segregata in casa, non puoi di certo aspettarti nulla da lei, proprio come non pretenderesti da un'ape chiusa tra quattro mura che ti fornisse del buon miele. Miele! Esclamò il vescovo. La duchessa, che avrebbe desiderato dar Judith in moglie a suo figlio, colpì leggermente il braccio di Ingeborg con il parasole mentre la oltrepassava in compagnia della figlia e le disse: Povera bambina pallida, povera bambina pallida! Scuotendo il capo con l'aria di disapprovazione, guardandola con espressione accigliata ma non senza un sorriso. Non appena l'ebbero superata, bisbigliò in direzione di Pamela, che sembrava proprio vittima dei sintomi della gelosia. Pamela rispose che quella era una sciocchezza e cercò di indugiare per parlare un po' con Ingeborg, ma sua madre, posseduta da quella brama per i rinfreschi che coglie senza fallo tutti i partecipanti ai ricevimenti, la trascinò con sé in un luogo dove questi fossero a portata di mano. La giovane venne così avvistata dal vescovo che, abbandonando immediatamente l'anziana signora con la quale stava parlando, si precipitò da lei per prendersene cura personalmente e circondarla di 1000 attenzioni. Una sedia, una bibita, della frutta. Egli infatti non solo le aveva impartito il sacramento cresimale, ma nutriva un interesse decisamente particolare per quella ragazza bella e intelligente dalle fattezze proporzionate. Di tutte le croci cresimali che aveva donato, la croce di Lady Pamela era senza dubbio quello che gli dava maggior piacere ricordare. Nel suo caso non vi era alcun pericolo che in quel morbido anfratto, sotto le mussole e i pizzi dettati dalla decenza, la sua croce stesse tintinnando contro un anello illecito alieno. «La portate ancora?» le chiese mentre le serviva il tè, la voce melodiosa e carica di sentimenti abbassata fino al punto in cui lo imponeva l'argomento. E si sentì un poco scorato, un poco deluso, quando gli rispose sorridendo con quegli occhi grigi che lo guardavano allo stesso livello dei suoi, tanto era cresciuto in altezza. «Portare cosa?» «La giovane donna!» Quel pomeriggio fece qualcos'altro che lo lasciò scorato e deluso. Mostrò una spiccata disposizione a prendersi cura di lui e la cosa non poteva piacere a nessun vescovo né del resto a qualsiasi altro onesto uomo sessantenne. Pensa che io sia vecchio, arguì con acuta e dolorosa sorpresa, mentre lui in modo aggraziato lo invitava ad accomodarsi per tema che si stancasse troppo stando in piedi. E dopo avere con altrettanta grazia chiuso una finestra dietro di lui per non farlo sostare in mezzo alla corrente d'aria. Più tardi, sempre con grande garbo, quando lui la condusse in giardino per mostrarle il pero in fiore, voltò il bel viso verso di lui per chiedergli se stesse camminando troppo velocemente. Sì, mi crede vecchio, pensò stupendosi. Lui, che solo l'anno prima aveva 59 anni e poteva quindi ancora definirsi cinquantenne. Che cos'erano mai 50 anni quando uno vi era abituato? Diventò molto solenne e trovò che il mostrarle lo spettacolo del pero in fiore avesse perso gran parte della sua attrattiva. Ne fu ancora più convinto quando, percorrendo la curva del sentiero che conduceva a quell'angolo raccolto del giardino, che il pero aveva reso una destinazione così popolare, si accorse che Ingeborg sedeva all'ombra della sua chioma. Era sola. Perché se ne sta sempre sola? Chiese lei di Pamela. Il vescovo non poté fare a meno di pensare che la sua ospite si stava dimostrando eccessivamente indiscreta. Non offrì alcuna risposta. Si sentiva troppo punto sul vivo. A parte tutto il resto, vedere la propria figlia saltare fuori all'improvviso in quel modo, Ingeborg! Chiamò Lady Pamela, agitando il parasole per attirare la sua attenzione mentre si dirigevano verso di lei, dato che Ingeborg, sotto l'albero, sedeva con il mento nel cavo della mano, fissando un punto indefinito. E pubblicizzando una volta di più, avrebbe asserito Mrs. Bullivant il fatto di essere bandita dai confini degli affetti familiari. Credo, disse il vescovo fermandosi, che forse dovremmo ritornare. Dobbiamo proprio. Ma perché? Si sta così bene qui. Ingeborg. Credo, disse il vescovo, ora del tutto irritato per via della persistente determinazione di lei a voler a tutti i costi includere sua figlia. Come se un padre potesse sempre includere i propri figli in ogni occasione e trarne soddisfazione. In quella che avrebbe potuto essere una conversazione poetica tra bellezza e giovinezza da un lato e prestigio e un poco comune talento dall'altra. E perché no? Anche una bellezza che se considerata nella sua matura mascolinità non era certo inferiore a quella di lei se considerata nella sua freschezza di fanciulla. Credo di dover proprio andare. Mia moglie, Ingeborg, svegliati! Che cosa stai sognando? Non vi era alcun dubbio che Lady Pamela non lo stesse ascoltando. Si girò sui tacchi e prese congedo, che continuasse pure, se proprio lo desiderava, ad agitare imperterrita il parasole in direzione di sua figlia. Ritornò verso casa, riflettendo sul fatto che le donne erano creature davvero deficitarie in fatto di immaginazione, un vero peccato. Possibile che persino quella di nobili natali, alla quale era stata impartita un'educazione brillante, ne fosse così priva da non riuscire a comprendere perché la figlia adulta di un uomo. Una mancanza di immaginazione di certo paragonabile alla stupidità. Non gli piaceva affatto dover ammettere che Lady Pamela fosse stupida. Comunque stesse la faccenda, e al di là di ogni considerazione, rimaneva sempre convinto che le donne non dovessero avere diritto di voto. Si allontanò. Ritornando verso il giardino principale, percorrendo il sentiero che costeggiava la grande bordura di piante in fiore, in cui facevano bella mostra di sé i tulipani, e quando offriva la sontuosa magnificenza di maggio, pensando che con gli occhi fissi a terra, a come sarebbe stato diverso se al tempo in cui era curato fosse stato abbastanza saggio da non sposarsi. Ah, la libertà della sua vita, se solo l'avesse fatto. A casa non mi sarebbe stato nessun infermo costretto sul divano, nessuna figlia adulta che lo avvilisse con il suo comportamento. Lui sarebbe stato vigoroso, distinto, un uomo del tutto desiderabile come marito e che con quella ragazza matura, ma non troppo, caratteristica della mezza età, avrebbe potuto scegliere colei che più fosse adatta a condividere i vantaggi che lui portava in dono. Persino Lady Pamela, allora, non avrebbe potuto considerarlo vecchio. Era la sua famiglia, ce lo faceva apparire tale. La moglie della chioma ingrigita, le figlie oramai in età da marito. La follia di un curato, l'inconcepibile, assurda follia di un curato. Per un cupo istante dimenticò ciò che di regola accettava con un sospiro, cioè essersi trattato del disegno della provvidenza, già da allora febbrilmente all'opera nel guidarlo, e che Mrs. Bullivant e le ragazze costituivano soltanto uno dei suoi molti imperscrutibili fini. La parte più indegna della mente del vescovo stava giusto sostituendo senza mezzi termini la parola guidarlo con una più appropriata, quando fu salvata, provvidenzialmente, fece subito notare la sua parte più nobile, dall'incontro con la duchessa. Stava procedendo lentamente verso di lui, esaminando le piante che componevano la bordura con l'interesse di un appassionato giardiniere e indicando con l'ombrellino quelle di maggior successo a una persona che il vescovo scambiò per qualcuno del suo seguito. Si trattava di un uomo corpulento che indossava un abito nero, lucido per l'uso e di alcune taglie troppo largo, che ricordava vagamente al vescovo uno dei meno rispettabili ministri del governo in carica. Si trattava di Herr Dremmel. Ma il diretto interessato era l'unico a saperlo. Era arrivato quello stesso pomeriggio, animato da un solo desiderio: sposare Ingeborg al più presto e ritornare senza indugio al suo lavoro. Giungeva a palazzo direttamente dalla stazione e, varcando la soglia assieme a tutti gli altri, non era stato sottoposto ad alcun controllo. Dopo un lasso di tempo trascorso a scrutare attentamente i presenti per individuare Ingeborg, si era trascinato in giardino, dove era subito incappato nella duchessa. Amareggiata dal contegno servile di un prebendario che si infervorava nel proclamarsi a tutti i costi d'accordo con lei riguardo al nome latino di un certo fiore, quando persino lei sapeva benissimo che quel fiore era errato. Ditemelo voi, proferì rivolgendosi a Herr Dremmel, che a sua volta li stava osservando. Che cosa desiderate vi dica, signora? Chiese educatamente, levandosi con uno svolazzo il cappello di feltro e inchinandosi con eleganza. Questi. Come si chiamano? Me lo sono dimenticata. Herr Dremmel, che nutriva un profondo interesse per la botanica, rispose senza indugio. Ma certo, confermò la duchessa. Ecco che cosa intendevo in realtà quando pronunciavo il nome di un altro fiore. È una varietà di borragine. Arnebbia echinoides, signora, proferì Herr Dremmel scrutandola più da vicino. Originaria dell'Armenia. È naturale che ci conquisteranno. Fu il commento che la duchessa rivolse al prebendario. Ma certo, convenne subito lui, benché non gli fosse chiaro il significato di quelle parole, dato che avendo ricoperto quella carica per un lungo periodo di tempo si trovava intellettualmente piuttosto rallentato nel cogliere il vero costrutto di un'argomentazione. Indi la duchessa, dimenticandosi di lui, rivolse interamente la sua attenzione a Herr Dremmel, il quale, pur non avendo mai visto in vita sua una bordura di piante erbacee, era in grado di dire con esattezza, attraverso il puro ragionamento deduttivo, quali operazioni il vescovo, che lui supponeva si fosse occupato personalmente della preparazione del terreno, avesse compiuto lo scorso autunno e in quale misura e di quale natura fossero i fertilizzanti usati per ammendarlo. Le sue conoscenze riguardo alle necessità di giardini e poderi in fatto di trattamenti, cui lui alluse come concimazione incrociata, sembravano così profonde ed esaurienti che la duchessa gli suggerì di rientrare insieme a lei nel pomeriggio a Copse e rimanere là a tempo indefinito. Lui però la interruppe, cosa che non le era mai capitata prima mentre invitava qualcuno a Copse, per chiedere le ragioni di quella moltitudine di gente in salotto e sul prato. La duchessa sgranò gli occhi. È una festa, disse, per celebrare il fidanzamento, non lo sapete? Mi sento gratificato, disse la Herr Dremmel, di trovare i genitori di lei così evidentemente compiaciuti. Conferisce una certa amabilità a ciò che era già colmo di fascino. Ma non sarebbe stato più completo se avessero invitato anche me? Oh sì, sono d'accordo con voi, rispose la duchessa, molto più completo. Beh, comunque ora siete qui. Quindi credete che il mio terreno manchi di azoto? Certamente, signora, sotto forma di concime, di semi, di ravizzone e sali ammoniacali, ma miscelati con stallatico. Il solo concime chimico non riuscirà nel periodo di gran caldo. Ma chi è quello? Chiese interrompendosi bruscamente, indicando con l'ombrello il vescovo che avanzava lungo il sentiero con gli occhi rivolti a terra e l'aspetto di chi medita sulle brutture della vita. Come dite? Chiese la duchessa, assorta com'era nel prendere appunti sul suo taccuino riguardo a ciò che lui stava prescrivendo. Quello, ripeté Herr Dremmel. La duchessa sollevò lo sguardo. Beh, il vescovo, naturalmente. Continuato a spiegare che cosa accade quando fa molto caldo. Suo padre, dunque. Enunciò Herr Dremmel avanzando con il cappello in una mano e tenendo l'altra estesa in offerta del più amichevole saluto. Si preparò a incontrarlo. La duchessa lo seguì. Vescovo, ecco un uomo che conosce tutto ciò che vale la pena di conoscere. Il vescovo, prendendo quell'affermazione per la presentazione di un amico, restituì la stretta di mano di Herr Dremmel con cordialità. Fu la prima e unica volta in cui si dimostrò cordiale. Signore, proferì Herr Dremmel, sono davvero molto lieto di conoscervi. Il mio nome è Dremmel, Robert Dremmel. Il vescovo ebbe a malapena la dose sufficiente di autocontrollo per impedirsi di strappar via la mano e lasciò che Herr Dremmel continuasse a stringerla. La sua mente prese a vorticare all'impazzata. Come fare per allontanare la duchessa? Come poter rispedire senza destare troppo scalpore Herr Dremmel fuori da casa sua? Come impedire che Ingeborg, che poteva sopraggiungere da un momento all'altro lungo il sentiero dietro di loro con Lady Pamela? Abbiamo ogni ragione, signore, affermò Herr Dremmel tenendo la mano del vescovo in una salda presa, di congratularci a vicenda, io con voi per il possesso di una tale figlia e voi con me. Non è una ragazza meravigliosa, disse la duchessa, per la quale esisteva solo Judith in quella famiglia. Il concime di semi di ravizzone e quell'altra cosa sarebbero d'aiuto anche ai miei fiori o solo alle bietole da foraggio? Bietole, pensò il vescovo. Concime di semi di ravizzone e furtivamente scrutò dietro di sé lungo il sentiero. Signore, disse Herr Dremmel, desiderando fare buona impressione sul vescovo e mettendo impercettibilmente la duchessa da parte, permettetemi anche di esprimervi le mie congratulazioni. Avete già preso il tè? Chiese disperatamente il vescovo alla duchessa, volgendosi verso di lei e sottraendo la mano. Sì, grazie. Beh, Mr. Dremmel, vi prego, vescovo, non interrompetelo, è molto interessante. Per i risultati delle vostre attività autunnali, proseguì Herr Dremmel, rivolgendosi al vescovo, lo splendore di questi fiori è prova sufficiente della vostra devozione, della vostra assiduità. Non crederete forse che questa sia opera sua? Chiese la duchessa. E il vostro abbigliamento, signore, disse Herr Dremmel, concentrandosi sul vescovo e desiderando con tutto se stesso di compiacerlo, suggerisce un interesse spiccato e peculiare verso ciò che questa signora, a ragion veduta, asserisce trattarsi delle cose che vale la pena di conoscere. Ma non può fare a meno di indossarlo, disse la duchessa. Nuovamente Herr Dremmel, con una certa impazienza, la mise a tacere. È un indumento assolutamente appropriato all'attività all'aria aperta. Persino le vostre ghette sono di foggia confacente allo svolgimento dei lavori di giardinaggio e il grembiule è piacevolmente reminiscente della semplicità dei nostri lontani avi. Questo è il modo in cui Adamo si sarebbe vestito. Dovete assolutamente venire a Cops, lo implorò la duchessa. Vescovo, vi dico che quest'uomo tornerà a casa con me. Signore, gli chiese Herr Dremmel con un accento di severità, dato che stava iniziando a considerare la duchessa davvero un po' troppo sfrontata. Questa donna è la vostra consorte. Oh! esclamò la duchessa mentre Herr Dremmel la guardava con rimprovazione e il vescovo lottava per tenere a freno l'istinto di prenderlo per la gola. Mio caro vescovo, disse la duchessa asciugandosi gli occhi, nessuno prima d'ora mi aveva mai fatto un complimento così. Il vescovo più attraente detentore di un seggio alla Camera dei Lord. Venite dentro, la implorò. Non posso permettere che rimaniate qua fuori in piedi. No, grazie, non sono per nulla stanca. Continuate, Mr. Dremmel. Signore, posso parlarvi in privato? Chiese Herr Dremmel, ogni dubbio ora fugato riguardo alla sfrontatezza della duchessa. In un'occasione come questa, prima che insieme si inizino le celebrazioni davanti a tutti, mi sembra innanzitutto opportuno che tra noi soli, a quattro occhi, a meno che questa signora non sia la madre di vostra figlia. Oh! esclamò di nuovo la duchessa. Il vescovo si rivolse a lui come una furia, con un tono che non riusciva a controllare. Sì, signore, certo che potete. Venite nel mio studio. Che cosa? State cercando di portarlo via da me, lo apostrofò la duchessa. Mia cara duchessa, vi sono cose urgenti di cui dobbiamo parlare, la informò il vescovo. Ma prima accompagnerò dentro voi, le disse offrendole il braccio. Quest'uomo, disse scoccandogli un'occhiata in tralice, al che Herr Dremmel, benché poco abituato a notare l'ostilità, non poté fare a meno di sorprendersi per l'espressione che gli si leggeva in viso, attenderà qui. O anzi, meglio di no, verrà anche lui, disse, dato che aveva intravisto delle gonne avvicinarsi ai cespugli dietro i quali cresceva il pero. Venite, prego. Ma, disse la duchessa mentre il vescovo le passava svelto la mano sotto il braccio e iniziava a condurla via con determinazione, più di quanto le fosse mai successo in anni e anni. Venite, prego. proferì il vescovo con protervia, quasi sibilando in direzione di Herr Dremmel. Un istante, per favore, esclamò Herr Dremmel sollevando la mano, lo sguardo fisso sulle figure che emergevano dalla vegetazione. Presto, signore, gridò il vescovo. Potrò vedervi in privato solo se verrete ora. Herr Dremmel, però, non gli stava più prestando attenzione. Guardava in direzione dei cespugli. Allora, vi decidete a venire? Chiese il vescovo, fermandosi e battendo il piede a terra mentre teneva la duchessa stretta nella presa del suo braccio. Mi sembra, disse Herr Dremmel senza badargli, ma sì, finalmente, ecco il mio agnellino di zucchero. Il vostro che cosa? Domandò la duchessa, sottraendo risolutamente la mano dal braccio del vescovo e sollevando le lenti davanti agli occhi. Dio del cielo, spero che non si stia riferendo a Pamela. Nessuno le rispose, e infatti non fu necessario. In quanto Herr Dremmel, avviatosi lungo il sentiero con una rapidità sorprendente per un uomo della sua corporatura, stava già di fronte a tutta Redchester e della maggior parte della contea, avviluppando Ingeborg tra le sue braccia. Naturale fu il commento che la duchessa rivolse al vescovo mentre osservava la scena attraverso le lenti con la placidità che nasce dal sollievo. Del tutto naturale che ci conquisteranno. Capitolo 11. Fu così che Herr Dremmel, armato della sua semplicità, riuscì ad avere la meglio sulle resistenze di principi, dignitari e potentati e fu unito in matrimonio a Ingeborg dal padre di lei proprio nella sua cattedrale. Tutto avvenne nel modo più rapido consentito dalla legge, non solo perché Herr Dremmel era assolutamente determinato che così fosse, ma anche perché la capacità di sopportazione del vescovo nei confronti delle sue incursioni quotidiane da Cops, dove risiedeva a scopo di corteggiamento, si esaurì rapidamente. Inoltre vi era il rettore della Nanè che, incitato a sua volta alla frenesia da successi ottenuti da Herr Dremmel nell'accelerare i preparativi, asseriva anch'egli che il fidanzamento fosse durato abbastanza e chiedeva che due matrimoni venissero celebrati lo stesso giorno. Alla fine ebbe la meglio, con il risultato che pur il matrimonio di Ingeborg, essendo officiato in concomitanza con quello di Judith, fu inevitabilmente sontuoso. La mano del vescovo venne forzata su tutta la linea. Lo stesso abito nuziale dovette essere bello per l'una quanto per l'altra figlia, e per quanto gli apparisse assurdo e perverso, egli dovette sborsare la stessa cifra per il corredo di colei che si era votata all'indigenza e all'invisibilità per il resto dei suoi giorni, così come per colei che senza dubbio, anche se naturalmente solo alla scadenza stabilita da Dio, sarebbe diventata la vedova più splendida del regno. Il vescovo, in seguito, non fu più capace di provare gli stessi sentimenti per la duchessa. Totalmente all'oscuro delle circostanze, della segreta ignominia di tutta la questione, dell'assoluta indesiderabilità di un genero di tal fatta, dell'incommensurabile disturbo arrecato nonché della perdita economica causata dal matrimonio di Ingeborg, ella si era presa a cuore Herr Dremmel fino al punto di coprirsi di ridicolo, battendo e ribattendo il chiodo per tutta la contea. Fino a che ognuno incominciò a credere che il migliore dei due mariti se lo fosse accaparrata Ingeborg. Tali pettegolezzi filtrarono a palazzo. Judith, che non parlava mai, prese a parlare ancor meno e, allontanandosi con crescente risolutezza dalle blandizie del promesso sposo, che non era stato invitato a Cops, passò la maggior parte del tempo chiusa nella sua stanza, occupata a non curarsi del proprio corredo nuziale. Il palazzo, tra una cosa e l'altra, divenne un luogo estremamente opprimente e la tensione dovuta allo sforzo di mantenersi calmi ed esibire un contegno che si addicesse a un Herr Dremmel entrato nelle grazie ducali, era diventata talmente estenuante da indurre il vescovo a desiderare, proprio come tutti gli altri, di concludere la faccenda e ad assecondare qualsiasi piano che accelerasse il matrimonio, ben sapendo che in tal modo avrebbe anche anticipato la partenza del meno illustre genero. Non rivolse mai la parola a Ingeborg e distoglieva lo sguardo con lo stesso controllato raccapriccio che coglieva anche il resto della famiglia quando attraverso le finestre si offriva a lui o a loro lo spettacolo della figlia che veniva corteggiata con teutonica meticolosità in posti quali il centro del prato. Non gli era più consentito passeggiare per il suo giardino senza incontrare la coppia intrecciata e benché suggerì a Herr Dremmel con ciò che egli sentì essere la prova di un autocontrollo davvero formidabile, che questa affettuosità in pubblico avrebbero potuto dare adito a critiche. Herr Dremmel rispose candidamente che dato che Ingeborg era la sua Braut, Vi sarebbero state ancora maggiori critiche, se non del tutto comprensibili lamentele, qualora il suo comportamento fosse stato meno caloroso. In Inghilterra non abbiamo l'abitudine, iniziò il vescovo, ma si interruppe subito per paura di perdere l'autocontrollo. Così Ingeborg, Herr Dremmel continuarono a passeggiare in giardino, ognuno aggiustando di frequente il passo con quello dell'altro, data la difficoltà del metodo scelto, quello intrecciato, per percorrere il sentiero mentre il vescovo e Mrs. Bullivan si ritiravano all'interno in cerca di sollievo e conforto presso Judith e la sua deliziosa ritrosia. Che il futuro marito volesse blandirla era naturale, dato che l'uomo è un figlio della natura, ma sapevano anche che se una donna voleva avvicinarsi al vero ideale di femminilità e non essere troppo studiatamente innaturale, doveva lasciarsi persuadere o indurre a prodursi in una qualche manifestazione d'affetto a beneficio del proprio fidanzato. Ovviamente era necessario dare a vedere che ciò non le procurasse il benché minimo piacere. Invece, eccoli Ingeborg che gironzolava lungo i sentieri del giardino come descritto, oppure che passeggiava in mezzo al prato con la mano in quella di lui, sprizzando felicità a ogni poro. Che indecenza! Ingeborg, dal canto suo, si sentiva felice, anzi, ancora di più, si sentiva estremamente appagata. All'improvviso non era più una ragazza malvagia, in disgrazia e messa al bando, ma una persona che suscitava passioni, che ispirava fiducia, un agnellino di zucchero. Che conforto essere un agnellino di zucchero. Aveva provato una tale infelicità mentre si trascinava attraverso quella lunga serie di giornate fredde e anemiche, in quel periodo di orribile inattività. Il divieto d'agire, impostole proprio nel luogo ove era solita svolgere il suo operato, le aveva aperto gli occhi sulla gravità di ciò che aveva commesso, di una colpa troppo atroce perché ella potesse essere riammessa al cospetto delle persone per bene. E ciò che aveva reso ancora più oscuro quel lungo periodo era il fatto che Robert, da qualche giorno, aveva preso a chiamarlo così tra sé, spinta dai metodi che la sua famiglia stava usando per redimerla, non le avesse scritto nemmeno una riga. Infine, egli giunse, disse Herr Dremmel, a quale la fidanzata stava raccontando la settimana che aveva trascorso. Ingeborg gli confidò che dal suo ritorno a casa il padre l'aveva ignorata totalmente, non rivolgendole mai la parola. Vecchio caprone, sentenziò Herr Dremmel con benevolenza. E che Judith era parsa completamente inorridita e che arrossiva se solo lei tentava di rivolgere la parola. Stupida oca, affermò ancora lui con placidità. Ora, in qualche modo sentiva che non avrebbe dovuto sentirsi avvilita, che avrebbe dovuto avere più fiducia. Che cosa la mia piccola avrebbe dovuto avere in maggior dose? Chiese Herr Dremmel, e dato che i suoi pensieri non avevano tempo da perdere, mentre lei contemplava il suo racconto, egli le occupò con profitto, immaginando i risultati, ad esempio, di 3 acri di barbabietole da zucchero trattate con fosfato di potassio, solfato di ammonio e nitrato di sodio, in aggiunta a 400 libbre di scorie alcaline. D'altro canto, il solfato d'ammonio sarebbe stato forse più efficace come concime azotato invece del nitrato di sodio nel caso delle barbabietole da zucchero, le cui radici tendevano a crescere poco e a rimanere più in superficie, diversamente da come si sviluppavano quelle delle bietole da foraggio. Ecco ciò che ogni brava mogliettina dovrebbe sempre avere in grande quantità, replicò, accantonando le barbabietole da zucchero per dedicarsi a un entusiastico abbraccio. Infatti si trovarono sotto il pero, un angolo di giardino che lei visitava raramente, non avendo ancora acquisito alcun interesse per gli abbracci, nonostante le numerose assicurazioni del fidanzato che tentava di tranquillizzarla, dicendole che la trasformazione sarebbe avvenuta presto. Ingeborg, pertanto, preferiva per il momento attenersi all'unico luogo immune da abbracci di tutto il giardino, vale a dire il centro del prato. Chissà, pensò mentre sottostava a quel processo, se riuscirò mai ad abituarmi. E ancora, mentre l'operazione era in corso, anche mamma deve esserci passata ed è ancora viva. E poco dopo, mentre di nuovo quella pratica le veniva inferta, pensò: però pensiamoci bene, mamma non è poi così viva, c'è il divano e questo potrebbe essere il motivo per cui. In ogni caso, lui l'amava, in un modo o nell'altro. Oramai non si sarebbe più data pena a tal riguardo, non le interessava più se si fosse trattato di infatuazione spirituale o di un amore che avrebbe richiesto a intervalli frequenti di avvilupparla nel suo abbraccio capace, perché lui le stava offrendo qualcosa di caloroso e di umano e lei si trovava a pochi passi dalla morte per assideramento. Che cosa importava se non era innamorata? L'innamoramento non era altro che un mito da scolarette. La vita reale era differente. La vita reale era piena di amicizia e affetto gioioso, e l'amore, quantomeno per la donna, non era affatto necessario. Il vescovo stesso si sarebbe sorpreso se avesse saputo fino a che punto la figlia si avvicinava al suo ideale di femminilità. Si sarebbe comportata in modo esemplare, promise a se stessa, e anche Herr Dremmel, con il cuore che traboccava di gratitudine e di beato sollievo, sì, davvero esemplare. Nel suo cuore non ci sarebbe più stato posto per lo scoramento, per la sfiducia o per la codardia. Là, in Prussia, si sarebbe messa all'opera, lavorando con buona lena tra i poveri, gli infermi e dedicandosi con gioia a tutte le incombenze della parrocchia. Se Robert le avesse permesso, l'avrebbe aiutato nel suo lavoro e qualora lui non avesse consentito, allora si sarebbe limitata ad aiutarlo a svagarsi e riposarsi a fine giornata. Avrebbero riso, parlato e passeggiato e lui gli avrebbe raccontato dei suoi esperimenti e l'avrebbe aiutata a comprendere. Come prima cosa avrebbe imparato il tedesco in modo molto accurato, così da poter provvedere al disbrigo di tutta la sua corrispondenza e alla preparazione dei sermoni, se fosse stato il caso, permettendogli così di risparmiare tempo prezioso. Quelli che la mia chiocciolina produrrebbe non sarebbero altro che insulsi sermoncini. Rispose Herr Dremmel, che nei pascoli lussureggianti dell'amoreggiamento aveva dimenticato ciò che più l'aveva attratto in lei, e cioè una sorta di piacevole candore mentale. Vedrai, gli disse Ingeborg in tono fiducioso. All'improvviso allargò le braccia e sollevò il viso verso il sole, verso gli scampoli di cielo azzurro che si intravedevano attraverso il tenero fogliame e verso tutta la luce e la promessa dell'universo. Si stiracchiò in preda a un sentimento di incontenibile felicità. Ah, sospirò, non è tutto meraviglioso, tutto è incredibilmente meraviglioso. Sì, lo è, convenne Herr Dremmel, ma non è nulla se paragonato a come sarà tra poco, quando saremo circondati dai nostri cari bambini. Bambini, fece eco Ingeborg. Lasciò cadere le braccia penzoloni e lo fissò. I bambini erano un argomento al quale non aveva mai pensato. Allora di sicuro la mia mogliettina non desidererà più scrivere lettere e comporre sermoni. Perché? Disse Ingeborg. Perché sarai una madre felice. E le madri felici non. Di sicuro il tuo tempo sarà interamente occupato ad adorare i tuoi bambini. Non ti interesserà nient'altro. Ingeborg rimase a fissarlo con un'espressione sorpresa sul volto. Disse, davvero? Poi aggiunse, sai, io non ho mai avuto bambini. Non era previsto. Rispose Herr Dremmel. Ma allora come fai a sapere che null'altro al mondo potrà interessarmi? Mia sciocca bambina, disse prendendola tra le braccia e fissandola con gli occhi umidi di lacrime, profondamente commosso per la consapevolezza che quella figuretta giovane e snella, stretta al suo cuore, sarebbe stata la capostipite di tutti i futuri Dremmel. Oh, sciocchina, non è forse nella natura di ogni madre preoccuparsi solamente di ciò che riguarda i suoi cuccioli? Davvero? Chiese Ingeborg in tono dubbioso, mentre l'immagine di numerose famiglie a lei note le danzava davanti agli occhi, malgrado quelle visioni, però era disposta a credergli. Lo fissò un attimo, pensierosa, ma disse, scostandosi un po' da lui con delicatezza e tenendo entrambe le mani posate sul suo petto: Che cosa c'è, chiocciolina? Non sarebbero bambini tedeschi? Senza alcun dubbio, rispose Herr Dremmel con orgoglio. Tutti quanti? Tutti quanti? Fece lui di rimando. Non avverrebbero quello che avviene nei matrimoni tra cattolici e protestanti, dove metà figli sono tedeschi e metà inglesi. Ah no, di certo, disse Herr Dremmel con enfasi. Ma Robert, continua mia liprottina, come sono i bambini tedeschi? Ora fu il turno di Herr Dremmel di rispondere in tono di fiducia. Vedrai. Una settimana più tardi fu celebrato il matrimonio e il vescovo, osservando Ingeborg dalla soglia con sguardo impenetrabile mentre mani esperte le rimboccavano con abilità la coperta da viaggio nell'auto che l'avrebbe condotta alla stazione e notando come i cuscini venissero accuratamente sistemati nella corretta posizione dietro la sua schiena, come un poggiapiedi venisse posato con cura sotto i suoi piedi e come ogni suo movimento venisse interpretato e soddisfatto all'istante, indirizzò la frase di congedo a sua figlia. L'ultima frase, come poi risultò, che l'avrebbe mai rivolto. Ti accorgerai presto di quanto ti mancherà Wilson, le disse lapidario. Poi rientrò a palazzo, sentendosi leggermente confortato. Ingeborg non lo rivide mai più.